Aqui a tribo seria distribuída de escolha o sucesso e para o modo ad primo milita botgelis e nevogelito e si tradiveram de guida marco bruto e ruente di xisse caesiunde. Giungere alla stessa fase della ricerca a cui era pervenuto Don Luigi Borello fu relativamente semplice grazie ai suoi scritti. La squadra dell'ECOS fu presto in grado di rilevare l'esistenza di onde sonore antiche memorizzate in un testimonio. Il vero problema era fare il successivo passo da gigante, ossia escogitare una tecnica e quindi un apparecchio capace di riprodurre le tracce mnestiche qui escenti. L'incidente di Francesca, che guadagnò a tutti noi una ramanzina di Corvero e a me una sua espressione di gratitudine in separata sede, fu attentamente esaminato e ricostruito al fine di scovarne le cause e scongiurare il rischio che si ripetesse. Comunque, da allora in poi rafforzammo le precauzioni e le cautele, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie. Quando il sistema, anche se ancora fermo alla fase della pura rilevazione, raggiunse un sufficiente livello di stabilità e sicurezza, il gruppo decise che era giunto il momento di metterlo alla prova su reperti autentici. Una pietra qualunque, infatti, non poteva simulare le condizioni e lo stato di conservazione di un vero testimonio antico. Procurarsene uno era l'unico modo per mettere a fuoco e calibrare la regressione temporale, per analizzare la stratificazione e per rilevare onde sonore vecchie di secoli. Qui il mio contributo si rivelò per la prima volta davvero importante, e al di là di ogni altra considerazione fui contento di poter finalmente abbandonare la panchina e andare in prima linea. In sostanza fui chiamato a individuare tutti i possibili candidati al fine di procacciare il testimone ideale, che doveva avere almeno quattro requisiti. Doveva essere integro e ben conservato, facilmente maneggevole e quindi piccolo e leggero, dotato di una datazione storica precisa e, cosa in assoluto più difficile, doveva essere accessibile in tutta calma e riservatezza. La squadra doveva insomma poter condurre i propri esperimenti senza dare troppo nell'occhio. Il fatto di parlare lo storichese, come lo chiamavano loro, e comunque di muovermi nel mio elemento, in effetti mi rendeva più idoneo ad accaparrarmi delle entrature nel personale impiegato nei beni culturali di Roma, e soprattutto a elaborare gli alibi necessari per ottenere le autorizzazioni e i permessi di studio del caso. Immagino che dovrei dirlo con vergogna, ma per portare a termine il mio compito non vidi altro mezzo che quello di sfruttare le mie conoscenze. Anzitutto il professore universitario che mi aveva seguito sotto tesi, e poi gli ex compagni di corso con cui ero rimasto in contatto e che avevano trovato impiego al ministero o in qualche museo romano. Mi sguinzagliarono a modo un segugio, dunque, e in capo a un mese, dopo infinite trattative, peregrinazioni e menzogne, ebbi la soddisfazione di consegnare personalmente nelle mani di Francesca una statuetta romana risalente al secondo secolo avanti Cristo. Raffigurava Giano Bifronte, una divinità latina. Non fu l'unico pezzo che procurai, ma fu il primo, e si sa bene che ogni prima volta è sempre l'ultima ad abbandonare il cuore. Intanto, compatibilmente con i suoi impegni, Corvero si informava costantemente sui nostri progressi, vigilando, come i migliori capitani, non solo sull'operato, ma anche sull'umore dei suoi ricercatori. Nella mia vita non avevo mai incontrato prima, né incontrerò ancora, un uomo più innamorato del sapere di lui, più deciso a spingere oltre ogni limite conosciuto i confini della conoscenza umana. Quando si parlava del paleofono, i suoi occhi brillavano come per una promessa prossima a essere mantenuta. E se non mi fossi fidato di lui, credo proprio che della sua determinazione avrei avuto paura. Fu un mecenate di prim'ordine, e se è vero che non poté dare alcun contributo scientifico alla ricerca, non di meno il suo sostegno e la sua costanza furono fondamentali. Francesca ed Enrico inventarono il paleofono e tutti noi insieme lo costruimmo, ma il leader che ideò il progetto, assemblò la squadra e poi la guidò a successo fu solo lui, il presidente Corvero. Di uomini come lui ne verranno al mondo uno, massimo due per secolo. E mentre tutti gli altri vivono e scompaiono senza lasciare traccia del proprio passaggio, questi giganti plasmano il mondo e dettano l'esistenza delle generazioni successive. Il giugno del 2007 fu memorabile per almeno tre motivi. Anzitutto la squadra dell'ECOS riuscì, con grande emozione di tutti, a recuperare da una pietra e a riprodurre in modo chiaro e inequivocabile uno strillo di Francesca. Fu sicuramente un grande momento e rimpiangerò sempre di non essermi trovato con loro, di non averlo vissuto in prima persona. Quella sera uscimmo tutti a cena e provai una gioia inesprimibile, eppure ascoltando le infinite goliardiche rievocazioni dell'ora X mi sentii anche un po' escluso. Un istante cruciale vissuto insieme può legare più di molti anni. L'apparecchio fu chiamato paleofono, nome che per primo e sin dall'inizio avevo usato per disegnarlo e che del resto tutti avevano già adottato da tempo. Solo in seguito scoprì che il termine non era nuovo e che era già stato usato dal francese Charles Cros per indicare il fonografo che aveva progettato. Altro evento importante fu il mutamento, a dire il vero un po' sofferto, del nome del progetto. La tecnica che il team aveva messo a punto e che si era rivelata vincente, la modulazione magnetrinica delle onde sonore inestinte, generò l'approssimativo acronimo Mnemosine. E così congedammo con un pizzico di rimpianto la ninfa Eco e ci votammo alla dea greca della memoria. La terza e ultima novità ci fu riferita di lì a poco da Corvero e purtroppo non poté essere accolta con lo stesso entusiasmo. Dopo averci convocato in riunione, il presidente ci informò che da quel momento avremmo condiviso il progetto con un'azienda partner, la Hermes. Era chiaramente di umor nero e diede prova di un'insolita reticenza, eludendo quasi tutte le nostre richieste di spiegazioni. Tutto ciò che scoprimmo fu che la neonata Hermes, affine alla Cliomedia per settore, nutriva un forte interesse per la ricerca e che da quel momento saremmo stati costantemente affiancati da un suo tirapiedi, un ingegnere di nome Marzio Folegari. Capimmo subito che c'era sotto qualcosa, ma soprattutto un fatto era chiaro. In qualche modo il segreto non era più tale. L'esistenza del paleofono era trapelata. Kai Sun Degan.